Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, ben trovati a una nuova puntata di Caffè Paglia, il contenitore sportivo del lunedì mattina di Radio Città Fujiko. Oggi qui nel salotto buono dello sport bolognese manca una figura importante, un saluto a Mingo in mezzo a in realtà abbiamo scelto le due punte, c'è solo la seconda punta di fianco a me e c'è il buon Simone. Come va Simone? Che però giustamente insomma è carico a molla perché i giornali, i giornalisti sportivi in questa settimana hanno scoperto Vergara. L'Italia intera, esclusi gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, che invece lo conoscono da 5 anni a questa parte, scoprono quel ragazzetto. L'ha accompagnato a scuola, capito? Simone lo portava a scuola col pullman, capito? Cioè, già aveva capito che era buono. Mamma mia, ragazzi. Sì, da come saliva i gradini del bus. Sì, da come. Appoggiava il piede. Sì. Già tu avevi capito che sarebbe stato un campione. Va bene. Vediamo snocciolare i vari temi della puntata. In assenza della stella della trasmissione che arriverà. Diciamo così, non so se avete visto le fatiche di Asterix. Di quelle che erano, e c'era la parte sulla burocrazia, è stata una delle più difficili per Asterix e Obelix. Lì era veramente difficile. Fiò in questo momento è alle prese con la burocrazia, attenzione, italiana, che bisogna specificare bene. Tanti auguri. Arrivare la prossima settimana direttamente. Va bene, ma c'è una canzone e poi dopo ci buttiamo dentro la puntata. Allora entriamo dentro a questa puntata appunto di lunedì 2 febbraio, il momento in cui il mercato è ancora aperto per poco, credo, no? È stasera la deadline del calciomercato, e tra l'altro con alcuni movimenti che sono collegati anche al Bologna. Bologna che non ha giocato, giocherà martedì. Ringrazio la Lega per una volta, dico, questo calendario creato dall'intelligenza artificiale, in questo campionato scritto dall'intelligenza artificiale, il Bologna gioca. Che ricordiamo ancora così tanto intelligente. È artificiale, rimane molto più artificiale che intelligenza in questo caso. Però per il Bologna, ecco, se dobbiamo guardarla dal punto di vista proprio squisitamente del calendario, c'è un giorno in più per riposare. Non ho capito per quale motivo si giochi il martedì, però la prendo come cosa positiva, come piccolo gesto per il Bologna. Il Milan non gioca le coppe, quindi non è che gli cambiasse ovviamente la data del giorno. Al Bologna, con la possibilità di riposare un giorno in più, la cosa non è male. Tra l'altro, appunto, il Bologna, dobbiamo certificare il passaggio al turno successivo dell'Europa League. Non siamo riusciti a entrare nelle prime 8, che era l'obiettivo massimo, perché ti tolgono 2 partite, ti tolgono un'andata e un ritorno, no? Nel sedicesimo di finale, quello che ipotizziamo chiamare sedicesimo di finale. Per qualche minuto il Bologna è stato nelle prime 8, quando la Roma stava perdendo col Panathinaikos, poi alla fine anche il Genk ha segnato, quindi non bastava il risultato della Roma per arrivare all'ottavo posto. Insomma, però il Bologna ha fatto il suo compito, ha vinto 3-0, ha sbagliato anche tanti gol. Devo dire, giocava con una squadra di livello abbastanza basso, tant'è che le 2 occasioni da rete clamorose lasciate dalla difesa del Bologna non si sono concretizzate, no? E comunque porti a casa una partita dopo 16 partite, una partita in cui non incassi gol. E questo è un lato positivo. Si comincia dalle basi, intanto non prenderle. Poi è un po' di tempo che parlavamo, analizzavamo della situazione del Bologna dicendo qualcosa deve essere successo, si apre il mercato e iniziano a dare via alcuni giocatori. Allora inizi a pensare di fare e forse che qualcosa realmente sia successo, perché il clima proprio della squadra era cambiato, no? Avevamo detto dopo la Supercoppa, diciamo così, un cambio evidente delle applicazioni, proprio della cazzimma in campo, esatto, c'era quel qualcosa che non andava fuori dalle possibili analisi tattiche, si era parlato della preparazione fisica che magari non era stata perfetta, o comunque quel qualcosa è successo. Immobile è il primo che ha salutato la compagnia, va a Parigi nella seconda squadra nel Paris FC, anche perché il Paris Saint Germain avrebbe fatto probabilmente raccattapalle in questa situazione. Va via anche Holm, che va alla Juve. Non sono riuscito a leggere le cifre di questo accordo. Comunque va alla Juve, prestito con diritto di riscatto, se non ho capito male, e il Bologna prende in prestito secco João Mario. Così, perché doveva coprire. Io João Mario me lo ricordo nel porto di Conceição, e ti dico la verità, era davvero un giocatore interessante. Poi non si è espresso, però non ha trovato modo di giocare praticamente della Juve. Non ce l'ha fatta, non si è incastrato bene nei meccanismi. È vero che era entrato in un sistema Juve che adesso comincia a essere un'altra cosa, dopo ne parliamo bene magari anche in un paio d'anni la Juve. È stato un po' un casino. Un po' il frullatore. Però João Mario intanto è lì presente e verrà già, ha salutato la squadra, è già pronto ad andare. Fabian anche era andato via, questo già subito nelle prime giornate, prima operazione di mercato. Tra l'altro Fabian gioca, non sta giocando benissimo alla Fiorentina, anche lì una situazione un po' caotica, che ha una situazione un po' particolare. In realtà è arrivata velocemente alla soglia, diciamo, all'essere vicino alla salvezza, però poi si è un po' fermato. Questi saranno temi della top 5. Dicevamo appunto per il Bologna, evidentemente questo mercato così movimentato racconta qualcosa, insomma racconta qualche situazione che probabilmente all'interno dello spogliatoio quando fai tanti movimenti non è mai un sintomo di tranquillità interna, diciamo, quello così. Che poi è vero che una buona società di calcio riesce a tenere all'interno dello spogliatoio i problemi e quindi non farli uscire. Poi le voci circolano, è ovvio che tutti sanno tante cose, poi in realtà spesso non arriva, però ufficialmente se è successo qualcosa all'interno della squadra è stata brava a tenerla dentro lo spogliatoio. Poi uno può fare un ragionamento che questi cambi, diciamo così, possono avere un senso nel peso dello spogliatoio. Immobile ha fatto poco, probabilmente solo il rigore contro l'Inter, cioè di tutta la stagione di Immobile si ricorderà il rigore decisivo per andare in finale di Supercoppa. È vero. Bel rigore, bellissimo. È vero che è stato sfortunato, è partito, ricordiamolo, titolare nella prima partita di campionato, quindi si fa male subito, poteva essere, no? Quello rimane un what if che può crearci questo dubbio, però rimane il fatto che dopo non è riuscito più a rientrare nella squadra o anche a un livello fisico particolare. Simone, tu già criticavi l'approccio, no? Prima ancora di vederlo giocare, il tipo di acquisto, soprattutto abbinato anche a Bernardes, cioè nel senso due acquisti che non ti convincevano. Non ti convincevano nell'idea sartoriana, esatto, del mercato. Esatto. Perché, ripeto, non bisogna mai cambiare la strada che sta funzionando, ok? Non ce n'era motivo poi, tra le altre cose. Sartori, bisogna mettere non benissimissimo nell'ultima distanza. No, a me il Bologna non sembra rinforzato rispetto all'anno scorso. Perché poi bisogna guardare le cose, no? Larghe, in macro. Non so che dire, negli ultimi due anni mi ha indovinato praticamente tutte le campagne acquisti e vendite, ok? Quest'anno sembra che non sia andato proprio tutto bene. Tutto nel verso. È vero anche che non è che ti dici sempre Pasqua. Certo. No? Cioè, ok, ci sta. Però questa era l'annata, ne parlavamo anche inizio stagione, in cui io, almeno personalmente, mi aspettavo un Bologna che si decidesse ad attaccare gli ultimi tre gradini del po', cioè era arrivato in un punto in cui eri a pochissimo dal poter diventare una vera contender. Perché adesso non sembra, adesso sembra, è comico adesso raccontarla così, però fino a due mesi fa, tre mesi fa, eri lì. Ti bastava lo poco. Lo sembravi. Ti, perlomeno lo sembravi, no? Cioè, voglio dire. E però invece poi sei caduto proprio là, quando nel momento in cui dovevi dare l'ultima accelerata, poi ti è venuto a mancare letteralmente forza fisica sulle gambe, perché negli ultimi due mesi sembrate proprio in affanno, proprio atletico. E non lo so adesso Vincenzo Italiano che cosa si va ad inventare, però la nota positiva, come abbiamo già sottolineato più volte, non sembra mai una squadra che sia sfasciata. Perché ogni tanto ci ha sempre provato a ripartire, però dopo alcune sconfitte, l'ultima che col Genoa, sei in controllo totale, sei sul 2-0, quelli erano altri tre punti che ti ridavano altro ossigeno, poi la perdi in quella maniera là, con 3 euro gol, nel momento stesso in cui vai sotto come numero di giocatori in campo. È anche un periodo in cui, cioè, piove sempre sul bagnato, no? Certo, spesso lo diciamo, però vediamo se le forze di ricompattare lo spogliatoio lo possono aiutare insieme al mercato. Non ho capito, stavo guardando, dando le ultime notizie di mercato, se il Bologna sostituirà Immobile, se Holm. Beh, fisicamente è uscito, ti manca un uomo. Holm è uscito ed è entrato Gio Mario. Fabiano è uscito ed è entrato Som, poi tu puoi decidere se hai un miglioramento o un peggioramento, lo dice però sempre il campo. Il numero rimane quello. Immobile è uscito e non è stato sostituito, non è per ora stato anche sostituito, anche un posto nel roster. Tra l'altro, delle voci di mercato, anche Dallinga pare abbia delle richieste, quindi comunque insomma c'è anche quell'opzione, quindi a quel punto dovresti, se andasse via anche Dallinga, la linea Immobile, ovviamente rimarrebbe solo esclusivamente Castro come punta centrale e saresti molto corto, ecco, diciamo così. Già forse vuoi, lo sei adesso. Vuoi, forse non vuoi considerare Odegaard anche lui una punta centrale, che comunque lui è un po' un ibrido. È nato centrale, esatto. Cioè è arrivato qua centrale, punta centrale, in realtà sì, l'abbiamo visto meglio in altre zone del campo, è stato provato in quasi tutte le zone del campo dell'attacco, esatto. In particolare insomma, Motta lo ha provato sulla fascia. Ma scherzando, anche se no, abbiamo detto che Odegaard se vede la fascia sta male, gli viene il batticuore, lui deve potersi muovere. Di claustrofobia. Lui deve potersi muovere sia a destra che a sinistra, perché quando c'è la fascia o da una parte non e ci puoi andare. Quindi il suo modo anche di caracollare all'interno del campo necessita uno spazio maggiore. Può essere che possa anche giocare punta, però sarebbe un anche giocare punta, non una punta reale. E soprattutto ad aggravare il tutto, voi andate a giocare contro una squadra che, pur non meritandosi nulla, è lassù, e soprattutto è difficile fargli gol. È molto difficile fargli gol. È difficile fargli gol. Infatti vediamo la partita di domani, oggi sarà Udinese-Roma per completare questa lunga già vedo Zaniolo fare gol e farsi cacciare perché farà un'esultanza di quelli che vero, solo lui essere, sa fare. Me la vado a giocare sicuro, sono sicuro. Beh, potrebbe essere un'idea. E a proposito di scommesse, c'è chi scommette di invadere il campo durante il Super Bowl. Ah, ok, non so vabbè, se vabbè, hai sentito. Gli americani. Era lui stesso che è andato a scommettere che qualcuno avrebbe fatto quello, e dopo ha guadagnato un botto di soldi, ha preso una multa, ma ha guadagnato un sacco di soldi. Vabbè, ma questo sono altre storie. E appunto, torniamo a Bologna-Milan, che sarà la sfida. Non ci sarà Salemakers. Okay. Queste sono le ultime notizie. Il Milan dovrebbe essere Salemakers. Senza Salemakers, il Milan che è sul mercato sembra vicino a Mattetà, ma ancora. Ma sembra che abbiano soffiato Cissé al PSV. E stanno lottando, stanno lottando su Cissé. Lottando su Cissé. E questo comunque il, la situazione. Nel col mercato aperto ancora fino alle 7 tutto può cambiare, pare che Mattetà siano alle visite mediche e quindi potrebbe essere quello, però però la situazione è appunto in divenire. Arrivano messaggi al 333 180 94 94 che andiamo a leggere. Buongiorno, l'anziano giornalista sportivo Bortolotti ha già destabilizzato l'ambiente oggi, ed è Marco da Castelaso. Può essere sicuro, non l'ho sentito, ma sicuro l'avrà fatto. Invece un altro messaggio che dice Gianluca, che dice: al posto di Immobile prenderei Petagna. Stava facendo bene ieri, non granché, però sta facendo bene. Però quello è la situazione, vedremo. No, un cambio sarebbe da fare, un'aggiunta sarebbe da fare per appunto completare la rosa. Poi hai tempo per cambiare tre giocatori dalla lista Europa quando entri nei sedicesimi finale, e quindi insomma vedremo come verrà ridisegnata anche la squadra per l'Europa. Bologna appunto che ha Helland, il nuovo difensore già acquistato, sì, entrato, poi una settimana credo, dovrebbe una settimana, essere più o meno insomma dentro alla situazione, più Som che abbiamo già visto in alcuni scampi di partita, che era l'aggiunta di João Mario. Questo lo vedremo, non credo che sia possibile vederlo già domani sera col Milan, è appena arrivato, quindi quello lo vedo un po' più complesso. Il Milan appunto che sappiamo squadra allegriana, la quintessenza della squadra allegriana, è ovvio che ha un compito importante, perché tutte le altre, cioè l'Inter ha vinto con la Cremonese, quindi insomma ha bisogno di tenergli il passo, e quindi ha bisogno di fare risultato pieno oggi a Bologna per la sua ipotetica lotta a scudetto. Poi secondo me l'Inter è più forte del Milan. L'Inter in questo momento è la squadra più forte del campionato, lo era anche l'anno scorso. Vero, nel senso che è un campionato che un po' ha perso l'Inter. Ha vinto il Napoli, ma un po' ha perso l'Inter. Lo ha perso l'Inter. Quest'anno complimenti all'allenatore, bisogna fare comunque complimenti all'allenatore. Anche Ale è un altro di quelli che quando parla mi sembra una persona intelligente, no? Mi sembra uno che dica le cose schiette. La cosa fondamentale, a me sembra uno che percepisce la realtà per quello che è, cioè nel senso lui si è calato bene nell'Inter sapendo di essere debuttante, no, perché era già stato insomma a Parma, ha già allenato le giovanili dell'Inter con cui ha vinto uno scudetto che meritava di più la Roma, però lo scudetto lui con l'Inter Primavera l'ha vinto un paio d'anni fa, credo, 2 o 3 anni fa, e quindi è uno che ha capito che ha avuto anche un po' di fortuna a ritrovarsi subito in una panchina gigante, quindi si è sceso nel ruolo con umiltà, con leggerezza, facilitato certo dal fatto che conosceva già l'ambiente. È uno degli eroi del triplete, mi sbaglio, è il regista che conferma. È bravo a lui, neanche io ero molto convinto della scelta, anche perché, ripeto, l'avevo visto all'Inter Primavera, non mi aveva neanche entusiasmato, neanche a Parma era stato bravino, sì, non mi sembrava però sto fenomeno, però invece alla fine è stato bravo a coordinare il lavoro che è partito da Conte, continuato con Inzaghi, e se tu guardi l'Inter ti dà la sensazione, sono anni che gioca sempre con lo stesso schema, però sono anche anni che sembra sempre portare qualche piccola modifica a quel tipo di sistema, e quindi lo rinnova ogni anno, e quindi ogni anno è più forte, è migliore, gioca meglio. Posso dire con molta tranquillità che credo che sia la squadra tra le più belle dell'Europa quando c'è da ricostruire dal basso e uscire fuori da una situazione complicata, questo si può dire, e poi verticalizza tipo in 2 secondi. Sì. Su questo particolare momento di gioco è davvero tra le top d'Europa. E niente, raga, è una bella macchina. Arrivano altri messaggi. Contro il Milan mi aspetto la miglior formazione possibile. È un gioco che punti a sfondare per vie centrali, visto che crossiamo come i matti e non va mai dentro. Ed è Antonio che lo dice. In effetti. Nelle ultime partite abbiamo visto un quantitativo di cross e anche di calcio d'angoli clamoroso. Calcio d'angoli, ecco, io sono uno contro il corner corto. E sì, pure io lo detesto. Sta abusando. Sì, lo detesto. Cioè, il corner corto lo fai e fai gol. se lo fai devi fare gol, quella volta lì lo fai, quella volta lì perché la difesa... preparato lo schema prima. Oppure perché la difesa è messa male, allora... ma può capitare poi una volta. Partiamo dal succinto numero uno. Quando fai tanti cross significa, in teoria, significa che davanti c'ha il Mark Hatley o l'Aldo Serena, anche l'Aldo Serena della situazione, era forte di testa. Di testa era molto forte, sì. C'hai l'Aldo Serena della situazione che te ne mette dentro almeno la metà, ma se tu crossi e davanti c'hai Dallinga, che è bravo, ma nel gioco aereo non mi è mai sembrato questo, insomma, sì, fenomeno. Non è un fenomeno. Ma neanche Castro. Che... Castro è piccolino, sa saltare, ha un buon tempo. È probabile che Antonio abbia ragione. Scelta possa essere abbia quella. Ragione. Credo che passi molto dallo stato fisico di Odgaard. Ancora siamo legati a quello, perché la parte centrale, appunto, per vie centrali, funziona se hai uno che le sappia usare. Abbiamo il traffico. Diciamo, è stato spostato un po' Ferguson nelle ultime partite, un po' più avanti, nell'ultima partita in Europa League ha giocato un po' più avanti, però giocare con una squadra di livello un po' inferiore. E, si è visto, ha fatto gol, cioè, quindi sta un po' tornando Ferguson quello che era, però secondo me la differenza la può fare Odgaard quando sta bene. Il problema è che Odgaard quest'anno ha fatto una stagione altalenante proprio con la forma fisica. Sì. Una partita sembra in forma e dice è tornato, al 70° sembra collassato all'interno della stessa partita, quindi evidentemente che su quello bisognerà lavorare. Stessa roba si poteva dire di Holm. È un giocatore che a me piace, quando sta bene per me è un fortissimo difensore, è un terzino moderno con il passo, però spesso va in confusione, spesso è infortunato, cioè non mi sembra il professionista integerrimo, ecco, diciamo così, della situazione, per quello che è stato questi anni che l'ho visto a Bologna, cioè, le punte massime erano eccellenti, veramente da dire uno dei migliori terzini destri del campionato, cioè quando lui è in forma, però quando durante l'anno, quindi sì, vorrei capire le cifre, non ho trovato le cifre dell'accordo per capire appunto se è stato anche solo mandato via perché aveva fatto casino, quindi la cifra basta poco, esatto. Oppure perché ci hai messo dentro un po' di roba che poi l'anno prossimo ti tornerà in casa, questo non lo so, però è evidente che in questa situazione non è, cioè, è uno di quelli che non è cresciuto, non è migliorato, cioè si aspettava l'anno della consacrazione. Ma ti ripeto, fino a due mesi fa è molto difficile analizzare la stagione di quest'anno di Bologna, perché c'è stato è come se avesse sbattuto contro un muro improvvisamente, no, è come se si fosse proprio fermata la macchina mentre tu stai andando a velocità di crociera. Sì, capito, è più adatto, non si capisce, anche bisognerebbe recuperare anche il rendimento di Orsolini, perché anche lui male, un po' maluccio, insomma, di quest'ultimo periodo. Dopo un inizio molto interessante, cui era il capocannoniere del campionato. Esatto. Va bene, tra poco ci sarà la top 5 e adesso andiamo però in pubblicità. Rientriamo in diretta per questa seconda parte di Caffè e Paglia, tutto con un sound. Ah, che sound, mamma mia, ragazzi. Il mood è quello giusto e salutiamo finalmente la stella della trasmissione che ha superato la fatica burocrazia. Mamma mia, che faccia. Vorrei che non ci spiegassi proprio tutta la tua mattinata, caro Fio. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Un abbracciatona particolare a chi, pur senza essere pagato, frequenta per molte ore al giorno uffici pubblici con il riscaldamento a palla di fuoco. Un sacco di gente intorno che lavora e nessuno che lavora per te. Cioè, quando aspetti così nel deserto dei Tartari, sospeso su una nuvola di azoto, ma va bene, andiamo avanti. Per fortuna c'è la top 5 da fare, per che fortuna. Ti può togliere un po' di pensieri negativi sul resto del mondo. Allora, è una top 5 particolarmente sexy. È una top 5 fatta di cose che a volte accarezzano i nostri istinti di te l'avevo detto sentiment, quella passivo-aggressività che fa male alle relazioni, che però quando si leggono situazioni macro ci può pure stare. L'altra cosa è che invece sono delle sorprese, sorpresine, sorpresone, varie ed eventuali. Vabbè, è molto colloquiale questa top 5. Sì, avete capito che è molto colloquiale. Partiamo da un match spettacolare a modo suo, direi. A modo suo spettacolare, per una serie di motivi. Uno perché sembra, l'ha detto un commentatore, sembra di essere ai tempi del Covid. Perché sì, lo stadio era completamente vuoto, c'erano 6.000 persone che all'Olimpico cioè, si perdono. Gli steward sono 4.200. Tu dici Covid, io dico Wisp, perché quando a inizio partita vedo un attaccante di 40 anni procurarsi un rigore, non sa neanche lui come ha fatto, segnarlo e andare a esultare sotto una tribuna vuota. Sì, ricorda molto. Per me è molto Wisp. Parliamo di Pedro, non è l'uomo copertina, ma è quello che apre le danze in un, a suo modo, spettacolare 3-2 tra la Lazio e il Genoa. Una partita che poteva per il Genoa ripetersi come quella del Bologna. C'è stato un momento in cui tutti hanno pensato lo rifà, nel senso che va sotto 2-0 con la gol di Taylor, che è una nuova acquisto. Sarri vede almeno qualcuno di nuovo e Taylor subito inserisce fa la sua prima rete in maglia Lazio, aveva segnato all'ultima partita dell'Ajax. Sì. Quindi un colpo di mercato che possiamo definire azzeccato, ed è il primo colpo di mercato di Lotito dopo lo sblocco in entrata, perché in uscita è stato molto bravo. Per sbloccarlo credo avesse ancora qualcosa da dare, diciamo così, e ha prima mandato via un po' di giocatori e poi ha iniziato ad acquistare. Questo Karen Taylor, 23 anni, non un brutto giocatore, almeno quello che insomma fa vedere in questo inizio. In quel momento siamo all'80esimo, è 2-0 Lazio, il primo gol su un rigore veramente improbabile, il secondo salta l'uomo bene Isaacsen e mette in mezzo per Taylor, e da lì incomincia la rimonta, o presunta tale, del Genoa. Tra l'altro inizia con un calcio piazzato di Malinowski, in questo caso un rigore, non una punizione, però inizia, non c'è stata l'espulsione, ecco la differenza, non era collegata all'espulsione di un giocatore della Lazio. Perché questo arbitro sapeva il regolamento. Perché lo conosceva quest'arbitro. Ne aveva sentito parlare, se non altro. Sì, esatto. E però dopo il gol di Malinowski, il Genoa ci crede, ritorna e fa gol Vitigna. Che pareggia il 2-2 e siamo al 75esimo. La situazione rimane molto aperta con la possibilità di segnare per entrambe le squadre fino al 90 sblisghesimo, perché ormai era, ho letto da qualche parte che era assegnato al 100esimo minuto il rigore, ovviamente immagino poi assegnato dopo un po' di acquisto, quindi probabilmente era il 90esimo rigore dopo 10 minuti come dicono. È arrivato il rigore di Cataldi che ribalta e cambia il finale della partita, insomma del remake della partita del Genoa. Esultanza pazza, baciandosi l'aquila sul petto a beneficio di nessuno, perché tutti i tifosi della Lazio sono fuori dallo stadio. Esatto, questo dall'inizio della partita. Che succede al senatore? Sta tribolato. Il senatore fa come gli adolescenti di Borgata negli anni 90 che hanno il motorino truccato, prima vendono i pezzi del motorino e poi vendono il motorino. Ok, quindi sta preparando probabilmente il senatore, ricordiamo Claudio Lotito, senatore, e una cessione, si sta preparando una cessione della società, ma prima vuole assicurarsi di vendere una scatola vuota. Molti pezzi pregiati sono già andati e io sono anche un po' perplesso, perché sì, ok, ha debuttato in maglia della Lazio Daniel Maldini e io la vedevo come prodromo di un'uscita di Isaacsen, forse il giocatore più interessante insieme a Mario Ghila tra quelli che sono rimasti in biancoceste. Ma su Ghila so che c'è il Milan per l'anno prossimo. Non sarebbe male. Al momento si è fermato l'altra pietra dello scandalo in casa Lazio, nella gestione del mercato e anche del gruppo a questo punto. Romagnoli è in congedo parentale, in congedo di paternità, ma avrebbe ha già un accordo con Mancini per la Littiad, pare che non gli abbia funzionato il fax, quindi sì, senza dire che abbiamo ceduto alle pressioni della piazza, abbiamo ceduto alle pressioni della piazza. L'abbiamo tenuto per non indebolire, l'ha detto comunque, per non indebolire troppo la formazione. Il problema è che Romagnoli appunto non l'ha presa benissimo, avendo lui firmato un contratto per un'altra squadra, e quindi è una situazione anche lì abbastanza interessante. Lo vedremo insomma come finirà, se rimarrà o no, lo scopriremo alle 19 di oggi, perché la possibilità di uscire è appunto fino alle 19, no? La data del calcio mercato, la chiusura del calcio mercato. E a questo punto andiamo avanti con il prossimo punto. Il prossimo punto in top 5 parla di una di quelle cose, come dice una nota pagina satirica bolognese, succede solo a Bologna. In realtà non è satirica, loro ci credono un sacco, sono convinti di fare veramente un lavoro culturale immenso nella riscoperta delle radici della cultura felsina. In realtà a me fa riderissimo, ma va bene. Vi ricordate quella volta che abbiamo perso in casa della Juve e abbiamo detto, ecco, sta a vedere che adesso questi si rilanciano, si sono rilanciati? Quella partita lì è stata la partita del rilancio della Juve di Spalletti, cioè Spalletti ha preso possesso della squadra, secondo me, in quella giornata, e per come è andata gli ha dato quella possibilità di continuare a portare avanti il suo progetto. È anche vero che mi piacerebbe, non l'ho letta, mi piacerebbe vedere la media punti della Juve con Bremer e senza Bremer. No, ma infatti sì. Negli ultimi due anni, se guardate, credo sia una roba che ha 2.97 quando c'è Bremer, 1.2 quando non c'è. Verosimile, molto verosimile. Guarda, penso che siete molto vicini. Cioè, come numero. È incredibile. In più, se ci aggiungi che fa pure due gol, diciamo che il secondo è un tapin, comunque, non è le cose che fa Bremer di solito. No, certo. Però fa anche pure doppietta, e quindi oltre che talismano e oltre che super difensore fa anche doppietta nella partita col Parma. Uomo copertina di questa voce di top 5 insieme a Winston McKennie, che comunque ha le sue doti di esuberanza, inserimento e potenza fisica che già conosciamo, è anche protagonista di una narrazione affascinante, quella cosa che se lo prende Pobega è Pestone, se lo prende un altro è Stephen Foot. Se lo fa McKennie da ammonito su un giocatore del Parma, è stato molto fortunato, perché il calciatore non può misurare l'altezza del piede quando va a colpire senza avere il piede attaccato per terra. È stato molto fortunato, ma siccome il calcio al giocatore del Parma arriva appena sotto la caviglia, allora va bene il giallo, non è rosso, e dopo segna. Questa è uno spiegone di Marelli, ragazzi. Non avrebbe bisogno di queste cose. Marelli là che io evito come la morte. Assolutamente da evitare, assolutamente da evitare. Buon raccontatore di storie. Comunque McKennie alla fine sta facendo un'ottima stagione. Ma è un bel sempre giocatore, lì, lo puoi mettere dappertutto. Ha giocato in quasi tutti i ruoli, tranne in porta nella Juve in questi due anni. Questo ragazzo non si dice sempre tante, troppe. Perché effettivamente sembra non essere un grande atleta nella vita. Da vedere, non gli daresti, perché c'ha un po' la panza, c'ha un po'. Sì, è uno che paffuteo. Si può andare, insomma. E tra l'altro è stato lo sponsor principale in Italia della pasta col pollo, che per me incarna proprio il disastro culturale totale. No, ma lui ha rilasciato anche interviste in cui è convinto nel suo essere che la cucina americana sia superiore. La nostra, insomma, l'ho detto sottovoce per evitare il brutture, insomma. Allora, vabbè, torniamo al calcio. Spalletti è stato bravo. È stato bravissimo. È stato bravo, ha rilanciato una squadra che veniva da due anni veramente, veramente male. E la proposta di gioco c'è, li vedi. Ieri il gol di Bremer arriva alla fine di un quarto d'ora in cui c'erano solo loro in campo. Avevano già tipo con Cesao traversa più occasione fallita, tipo ancora due minuti ancora prima, un buonissimo, cioè, Corvi per tutto il primo tempo. A proposito, leggera parentesi, molto bello il tentativo del Parma di rilanciare il design di inizio anni 90, ve lo ricordavate, il Parma con la maglia tipo da rugby, un po' meno la realizzazione, ma l'idea è carina, l'idea c'è. Bravo Spalletti, ha ridato un'anima ad una squadra che insomma è in evidente crescita. Anche su Jonathan David ne ho sentite tante da gente che evidentemente non guarda la televisione, non guarda le partite, perché ricordiamo... Guarda la televisione, ma non le partite. Non le partite, perché Jonathan David è sempre quello che va a sostituire Osimhen a Lille quando Osimhen passa al Napoli, ed è uno che ha fatto una montagna di gol in Francia. Ora, all'epoca forse era più facile segnare Ligue 1 rispetto alla Serie A, e questo è vero. Citofonare Thijs Dalling. E questo è vero, niente da dire. Però che il giocatore fosse buono si vedeva. C'è un giocatore che sa dialogare con chiunque nel reparto d'attacco, lo metti un po' esterno, lo metti al centro, c'è i tempi giusti quando devi fare gli scambi stretti in area, non so se ci avete fatto caso, è molto bravo nel distribuire i palloni in spazi strettissimi. Non è Marco Van Basten, ok? No. Questo è chiaro. Però non è nemmeno la mezza sega di che sembrava dall'inizio il girone d'andata. E la Juve adesso avrà tre belle partite per dimostrare, per capire, per testarsi, diciamo così, per capire qual è il suo vero obiettivo e il vero valore. Perché ha in casa la Lazio, poi Inter e Como. Vabbè. Quindi sono niente male. Tre partite che ti racconteranno se puoi ambire alla Champions, che è l'obiettivo minimo, che porterebbe poi al rinnovo di Spalletti, no? Se non sbaglio, il contratto di Spalletti è vincolato alla qualificazione in Champions, oppure addirittura sperare qualcosa di più. Battendo l'Inter potresti rientrare addirittura in corsa per qualcosa di più, anche se hai 10 punti di distacco, quindi insomma adesso il distacco è alto. Ovviamente l'Inter è assolutamente favorita, c'è qualcuno che non crede alla possibilità, però insomma se li vinci tutti e tre puoi anche pensare di ambire qualcosa di più che il quarto posto. Per dare un'idea del pensiero magico spallettiano, figuratevi che a un certo punto segna Openda. Segna anche Openda? In fuorigioco, poi viene annullato perché non è che possiamo proprio fare tutto guarda, capito? Vai. Dai, esageriamo. 4, sblisga gli expected goals prodotti dalla Juventus al Tardini, c'è chi ha fatto di più e oltre a fare quello ha fatto il frizzo, il lazzo, il doppio senso, l'ammiccamento, il senso unico e l'allusione, ha fatto un po' tutto, una grande pagina di commedia all'italiana in un teatro da grandi star internazionali che si annoiano, non vogliono più tornare all'outlet perché ci sono già stati la settimana prima e allora vanno sul lago di Como a vedersi una partita passeggiata, poi c'è la partita è là, c'è Como Atalanta, Como Atalanta, diciamo. Oh, raga, noi qua ci abbiamo tutti una certa età, parlo pure di te, i miei ricordi di Atalanta Como so tipo da Serie B fino agli 80, quando Atalanta e Como erano due squadre che facevano su e giù, su e giù. Posso su chiamare giù un MVP? No. Fabio Rustico. Addirittura migliore in campo Fabio Rustico, e invece noi ce le ritroviamo che due squadre zone europee, cioè con ambizioni di qualificazione europee, cioè una è l'ultima grossa squadra che ha vinto una troppa internazionale, esatto. L'altra è quella che presto destinata a vincere, destinata a vincere. Quello che prossimo vincere campionato europeo, e ce le ritroviamo, sembra incredibile, però a Como e Taranto sono queste due realtà in questo momento, che dire, guarda, che bella partita alla fine, se sì, sei neutro, una bella partita, una bellissima partita. Sarebbe incredibile raccontare di una partita in cui una squadra attacca forsennatamente, l'altra si difende con ordine e ha nella sicurezza del reparto arretrato il suo punto di forza, se non fosse una partita rovinata al sesto minuto da una roba imbarazzante. L'attore comico Perrone procura l'espulsione di un 17enne usando il peggio della sua malizia a disposizione di fronte a una squadra arbitrale gravemente insufficiente nel contesto, in quell'episodio gravemente insufficiente, con un guardaline abituati a vederli quando vediamo le partite in presenza allo stadio come figure assolutamente passive e anche giù di tono, molto lente nel fare per la lunga il fare campo, il loro lavoro, molto impegnati ad alzare la bandierina nell'ultimo secondo utile possibile dopo che il fuorigioco è già stato ravvisato anche da quello che calcia, ma anche quando il fuorigioco è evidente, cioè io capisco, ti hanno detto che nel dubbio tieni giù la bandierina perché poi non tanto essendoci il VAR dopo, certo, vai a controllare, ma ci sono dei fuorigiochi da 3 metri e guarda lì lo tira su, però non lo tira su, poi lo tira su, Anor, cioè non sta né in cielo né in terra. Anche perché ancora di più a monte, anche ammettendo ci fosse stato un contatto magari non violento, sai, contrasto, lui ha reagito, tu arbitro devi avere la lucidità, deve avere sangue freddo di ragionare e di butto nel cesto una partita per l'Atalanta dopo 5 minuti oppure ragiono. No, vedo allora, quello che devo fare. Se ti gira, lui non l'ha visto. Lui si gira e vede Perrone che si rotola a terra in maniera clamorosa. Allora vai arriva, a vedere. Arriva lo spione. Aspetta, vai a vedere. Perrone a quel punto, rotolandosi così, dovrebbe avere una maschera di sangue. Deve essere almeno tumefatto. E gli ha spaccato l'arcata sopraccigliare, non so, una roba del genere. Perché si sta contorcendo come se stesse per morire. Vedendo che non c'è il sangue, dovrebbe dare due gialli. E basta. O se ravvisa proprio dal citofono lo spione già citato, che gli dice guarda che è successa una roba gravissima, dovrebbe tutelarsi andandola a rivedere. Ma vado a vedere in TV e capisco che cos'è. Questa è la situazione. Invece fidandosi del guardaline va a espellere Anaor. Secondo me è un'espulsione molto ridicola, esagerata. Ma no, ma indirizzi una partita. Indirizzi una partita così. Già a Como le partite sono state indirizzate in questo modo. Lo sa bene il Bologna. L'espulsione di Cambiaghi è meno ridicola di questa, addirittura, ma comunque ridicola in modo palese. Io penso che ai termini di regolamento, se si è operato in questo modo, adesso Perrone dovrebbe fare 3 giornate sul divano di casa. Però che succede? Però che succede che Carnesecchi decide di far capire a tutti che lui vuole andare ai mondiali. Ecco, questa è l'unica nota positiva. Vabbè, un po' il karma che ti gira. Grandi prestazioni di Ederson, di Scalvini, ma Carnesecchi proprio ieri l'ha fatta proprio grossa. Sì, Scalvini, enorme prestazione, salta con quel pugnetto tipo mano del Dios. Sì, però erano in contrasto in volo, si sono soccapigliati. No, e poi gliel'aveva chiesto Carnesecchi. Esatto, tanto paro anche questo, fagli un rigorino, dai, fagli un rigorino che io lo paro. Sì, sì. Sul dischetto così prendo più 3 a fatta calcio. Sul dischetto a proposito, a me non interessa nulla, però so che voi qua 12 è il risultato che fa calcio. Che qualcuno ce l'ha contro, qualcuno vedo una mano che si alza. Regista, bene, bene, bene. Non male, non male. Amico 12. E Anico Pazzo. Mi sembra un'ottima soluzione. Bella vicenda perché finisce bene, una storia dietro fine grazie al Nico Paz, questo dono che il Signore ha fatto a tutti noi atei e miscredenti e anche sanfedisti in generale. Il dono che c'è il Signore è un altro, non ti preoccupare. Che dopo aver sbagliato 2 rigori, da quando è diventato rigorista, prima i calci di rigore erano di Alvaro Morata, che li sbagliava anche lui comunque, si fa ipnotizzare da Carnesecchi. Attenzione, il rigore è tirato molto angolato ma non velocemente. Carnesecchi si butta alla disperata ricerca dell'angolino ed è il posto giusto. È il terzo che para quest'anno. È il terzo che sbaglia Nico Paz. Sono 3-3 ed è un punto per uno in una partita condizionata pesantissimamente dall'arbitraggio casalingo che favorisce ancora una volta e ancora una volta il Como, ormai in lotta per il premio Nobel per la pace. Probabilmente anche quello gli verrà dato. A 41 punti, il Como, 6° posto, rimangono ovviamente le distanze tra Atalanta e Como perché pareggiano. Forse per il Bologna era il risultato migliore il pareggio, nel senso che se vuoi ambire ancora ad avere un posto in Europa, è ovvio che devi puntare a quella situazione lì. E in questo momento sono 6 punti all'Atalanta, ovvio, abbiamo una partita in meno da giocare domani col Milan. Facile, una partita tranquilla. Queste 3 giornate a Perrone mi aspetto di commentare nella prossima puntata. Sarebbe esserci. Forse l'unica cosa che potrebbe riallinearmi un po' il chakra alla visione di tutto questo. Ma non capiterà. No, va bene, andiamo avanti. Assolutamente improbabile perché... che accada. Andiamo avanti. Oh, qui c'è una grande bandiera con scritto: ve l'avevo detto, ve l'avevamo detto, ve lo abbiamo detto. Una grande bandiera rosso-blu. È rosso-blu del Cagliari che arriva alla terza vittoria consecutiva. Non so se è la terza o la quarta, però stanno camminando. Sta volando. Sì, terza vittoria consecutiva in Serie A e gli avversari erano Juventus, Fiorentina e Verona. Tutte squadre che hanno che vinto scudetti. Esatto. Tutte squadre scudettate. Partiamo proprio dalle basi, ok? Tutte che dovrebbero ancora dire qualcosa, senso la Juve in lotta per la Champions, la Fiorentina per salvarsi, anche il Verona, anche se per quanto... devo dire, il Verona mi sembra veramente un po' allo sbaglio. cioè, sì, diciamo, ha venduto anche il più forte giocatore che aveva, cosa che fa spesso. Le dichiarazioni, lo fa ogni anno, le dichiarazioni di fine partita di Sean Sogliano, uomo di calcio, uomo che molto capisce, bravo, molto bravo, raccontano con grande onestà la situazione di una società che è già acchittata per andare giù. Affascinante il fatto che dopo ognuna di queste tre vittorie del Cagliari, il Cagliari sia stato in top 5 e ne abbiamo raccontato tre vittorie molto diverse. Quella contro la statistica e contro la Juve, quella di ordine, ripartenza e fantasia in progressione in campo aperto a Firenze, e questa qua è una vittoria dominando. Roboante. Quindi lo fa in tutti e tre i modi. Il risultato finale di questa partita non lascia adito a dubbi di nessun tipo sulla prestazione del Cagliari, un rotondissimo 4-0 in casa contro un Verona che poi rimane anche in 10 al 51esimo perché Sar si fa cacciare, e c'è gloria un po' per tutti. Guarda, spiace che non bolli Palestra, perché sarebbe stato fa un'altra partitona enorme, e invece segna ancora Kirik Skoy, che alla fine è un bel giocatore, è davvero forte, ho detto che mi piace tanto, è in prestito dal Besiktas, tornerà al Besiktas a fine stagione, però mi sembra che bel centravanti, il Besiktas si trova con un buon tesoretto, se non altro se lo metterà sul mercato sicuramente migliorato la situazione. È il quarto gol che segna c'ha i numeri, stagione, c'ha le basi, cioè, proprio un bel centravanti, è anche bello da vedere secondo me. Sì, ve l'ho detto, a me nelle movenze ricorda tantissimo Gonzalo, ma proprio tanto come si muove Young Higuain, uno Young Higuain. Ma e Cario, ripeto, ha ammassato tantissimo talento in questa squadra. Eh sì. Cioè, non mi sa che è probabilmente il miglior progetto di quest'anno. Che sì. Allora, è il miglior progetto sportivo, sempre in base a quello che puoi spendere, alla grandezza della piazza. Tu ammassi Kylix Hoy. Gli Esposito, bravi, sono due. Pio, ok, ma anche Sebastiano del Cagliari. Guardate che è uno che crea. E c'è un raggio d'azione più largo, si può uscire fuori dall'area e creare. Ieri pure piazza. E lui è suo il cross per Kylix Hoy, per la rovesciata di Kylix Hoy. Bravo Pisacane, bravo Cagliari, brava società Cagliari, bravi tutti. C'è la cosa interessante degli Esposito, che potrebbero benissimo giocare insieme, potrebbero essere una coppia. Quasi dovrebbero, quasi dove Gennaro, Gattuso, Gattuso. Gattuso può farlo, cioè nel senso, è l'uomo che può realizzare sta cosa. Però potrebbero, secondo me, si dovrebbero anche insomma conoscere abbastanza bene. Una nota di colore segna al ritorno sull'isola Sulemana nostro. Il Sulemana del Bologna, quello che ha segnato, che è stato girato tra giro di prestito, finisce al. Ti dico di più, il miracolo di questo Cagliari, il mio piccolino fino alla settimana scorsa, quando mi bombarda a casa col pallone, era tutto un orsolino di qua, un rovo di qua, te lo giuro, l'altro giorno ha passato l'intera giornata a bombardarmi al grido di Mazzitelli, giuro, al grido di Mazzitelli, quindi per dire che magia sta facendo il Cagliari. Il Cagliari è veramente in crescita, e a questo punto, ultimo punto della top 5, non poteva che essere... Come a biliardino si passa sotto al tavolo quando lo smacco è troppo pesante. E adesso siete arrivati lunghi voi con i vostri articoli. Il problema del calcio italiano è tutto qui. Noi ormai abbiamo fatto il giro, abbiamo cambiato il paradigma. Quindi per noi la grande opportunità del calcio italiano adesso è Vergara. No, ragazzi, non so che dire, veniamo da un 4 giorni detonato proprio il suo talento. Il problema qual è? Tutto bellissimo Vergara, torniamo sempre al problema. Se Spalletti, Garcia, Antonio Conte e tutti gli allenatori che si sono succediti alla guida dell'Under 20, dell'Under 19, dell'Under 21 non vedono un talento del genere, noi abbiamo un problema serissimo. Non ce l'ha Vergara il problema, è proprio tutto nostro. Sì, sì, no, la cosa che racconta il problema del calcio italiano è che Vergara ha 23 anni, 10 partite dei professionisti. Adesso ha 10 partite dei professionisti. Serie A, no, i professionisti ce l'ha già, sì, Serie A, Vercelli, con la Reggiana. Anche perché non vi fidate del ragazzo. Andiamo a vedere, questo è l'MVP in carica della stagione della Reggiana dell'anno scorso. Dici, pochi cazzi, sembra la squadra di Serie B che sta lì. Alla Pro Vercelli pure era stato uno dei migliori. In primavera si annoiava perché era troppo platicamente super. Ora, se tu no, gioca solo perché muoiono tutti gli altri, Se io fossi ADL chiederei conto sia a Manna che a Conte di questa, perché nel frattempo ADL è quello che caccia i soldi per Lang, per lo stipendio di De Bruyne, è per Neres, è per i rinnovi di Politano. Se però tu il gioiello grosso ce l'avevi in casa e non lo hai visto o non lo hai voluto vedere, perché forse è la seconda, tu c'hai un problema. Comunque gol bellissimo, gol bellissimo per sì, quello l'ultimo gol, quello che fa, va al doppio di tutti e capisce prima le cose di tutti, cioè nel senso, bravo, bravo, perfetto, no, finisci che ti voglio sentire. E fa quello stop che è l'unico stop possibile per poterla gestire, quindi fa quattro cose in due secondi prima che tutti gli altri intuiscano che lui le sta facendo. Parliamo di un giocatore così, il gol è quello, perché lui capisce, prende il tempo a tutti e anche Doti, evidentemente lo scatto è importante perché prende vantaggio su questa cosa, e anche la freddezza di anticipare pure il portiere. Esatto. Perché anticipa da lontano, poteva avanzare almeno di altri due o tre passi. Il portiere non se l'aspetta il tiro a quel punto lì, portiere che comunque qualche partita l'ha giocata. Che cioè non, non una sedia, ecco, non è una sedia, è un portiere importante. Veramente siamo contenti di poter dire che Vergara vince la top 5. Gol e assist e Antonio Conte che piange dopo una vittoria, meglio di così? No, no, ha superato se stesso. Conte ha dichiarato testualmente che quest'anno non si sono lamentati. Ha detto così. Cioè, non possono accusare di essersi lamentati. Pensa quando si lamenta. Vai, andiamo in pubblicità. E possiamo entrare dentro al sound del questa terza parte di trasmissione, sound internazionale, perché si parla di calcio internazionale, quindi giustamente, insomma, il nostro regista ci tiene a sottolineare questo. Cosa è successo in giro per il mondo? Avete seguito? Hai seguito qualcosa in particolare, Simone? Sono riuscito, un weekend lavorativo drammatico, quindi poca roba, ma c'era il derby basco. Atletico Bilbao, Real Sociedad, dimmi. Anch'io volevo iniziare da quella per disintossicarmi dalla pagliacciata di Como e purtroppo ho visto una pagliacciata gemella. No, perché? Che mi sono perso? Io ho visto solo le immagini di due gol fantastici. La Real Sociedad va in vantaggio al San Mamés con una mazzata di Gedesce, niente male. Niente male. Il pareggio arriva tipo negli ultimi istanti di gioco, Dea Scalareta, non mi ricordo bene, adesso sbaglio il nome, anche lui si prende un gol della Madonna, entra in area saltandone tre, passando a due, poi gli passa in mezzo come se non esistessero. San Mamés in fiamme e niente, tutto molto bello. Ogni volta che c'è, quando c'è il calcio basco che va, è sempre tutto molto bello. Invece volevi aggiungere, purtroppo c'è spazio per l'espulsione di Mendes della Real Sociedad, ridicola altrettanto come quella di Anor, e mi auguro, anche se amiamo l'Athletic Bilbao, tre giornate anche a lui là io gliele darei per rimettere un po' ordine, un po' di equilibri nel regolamento del gioco del calcio, e che però che stiano a casa, non che, tipo Maresca che va a fare il VAR. Cioè, tu sospendi Maresca e lo mandi al VAR. Cioè, che sospensione è? Vabbè, comunque. Dove può fare ancora più danni. Potrebbe essere pericoloso. E, tra l'altro, vabbè, ho sentito una signora che aveva avuto 70 anni, ma molto posata, tifosa del Genoa, in una radio sportiva, in una di quelle interviste, un microfono aperto, che diceva proprio questo. Cioè, voi avete detto, i giornali dicono tutti che ha due o tre giornate di stop Maresca per la partita Genoa-Bologna. Lei si lamentava per il rigore non dato al Genoa, quello di Freuler su Vitigna, e più che dell'espulsione di Skorupski. Comunque, in realtà va al VAR, quindi. Perché scrivete che siete così e poi in realtà è un po' così, finirà poi allo stesso modo, penso. Vediamo in Spagna se succede così uguale. Dicevamo appunto Spagna che vede ancora in vetta le due che vincono entrambe, Barcellona 3-1 con l'Elche e 2-1 per il Real Madrid contro il Rayo. Sì, partita affascinante, fischi al Bernabéu, era anche ora, rigore al centesimo, rigorino ino per il Real dopo che il Rayo in 10, no vabbè, una roba abbastanza, diciamo che c'è, non solo in Italia, c'è grande area di restaurazione, sì. C'è proprio un ritorno reazionario a un piccolo mondo antico che magari faceva anche cagare, ecco, non necessariamente va restaurazione. Finisce il 9 addirittura al Raio, perché Pep Chavarria, dopo il rigore, insulta l'arbitro. Finisce quello e vince appunto 2-1 con il rigore di Mbappé. Ma si fa male Bellingham, però, da solo, mentre correva, si è sentito tirare via dei flessori e mi sa che l'infortunio è serio. Potrebbe essere serio. Vedremo. Comunque rimane la corsa, tra corsa 2 ovviamente, in Spagna, come spesso accade: 55 punti per il Barcellona, 54 per il Real Madrid. Sul Barcellona invece è diventato un po' meme un doppio errore di Ferran Torres, lanciato verso la porta dell'Elche. In realtà le due conclusioni sono entrambe difficilissime. Non è Dzeko contro il Palermo con la maglia della Roma, con Maicon già incazzato prima che tocchi il pallone. Non è quell'errore lì, non è quel tenore là, però è abbastanza estetico. Dicevo, pareggiano sia Atletico Madrid che Villarreal, quindi si stacca ancora di più il duo di testa. Terza e quarta si fermano con un pareggio. Villarreal, che ha ancora una partita da recuperare, credo, con Mallorca, e ha 3 punti in meno dell'Atletico Madrid. Atletico Madrid che prende dalla MLS il giovane Obed Vargas dei Seattle Sounders, che era uno dei miei feticci quando era ancora, adesso è ancora giovane, ma all'epoca era proprio un ragazzino, e sono molto contento di vederlo qua. E prende anche Lookman, credo, no? Credo di sì, ho visto qualche foto. Cioè, lui è andato, poi ha detto: ma io intanto sto qua. Io vado, poi fate voi. Io a sto giro me ne vado. L'altra volta con l'Inter mi avete fatto andare. Io adesso vado. Posso intervenire? Sì, in realtà Lookman voleva andare al Fenerbahce, poi ci ha messo, non c'erano le garanzie bancarie. Si è accordato con l'Atletico Madrid, però vuole lo stesso stipendio, 7,5 che gli davano i turchi. Quindi, quindi ancora non è Bene, grazie. Ringraziamo il regista che si fa sentire. È bellissimo sentire in voce il regista. Vabbè, Lookman, comunque, da un punto di vista di temperamento, ogni tanto sembra che abbia smussato degli spigoli. Poi lo vedi in Coppa d'Africa con Osimhen e capisci che no. Non li ha smussati proprio del tutto. In fondo alla classifica rimane l'Oviedo a 16 punti, Levante a 18 e Mallorca, che deve recuperare la partita, con 21 punti, e sopra c'è il Rayo Vallecano. La brutta fermata, il brutto stop di ieri, anche se contro l'avversario che non può perdere, comunque pesa abbastanza. Stasera Mallorca-Siviglia. Allora non è col Mallorca che deve giocare il Villarreal, ma con chi deve giocare? Con Levante. Con Levante, una partita ce l'ha ormai da un sacco, il Villarreal sempre una partita in meno, e prima o poi la giocherà. Andiamo in Premier, dopo la Liga lasciamo la Liga, andiamo in Premier, dove intanto si stanno scaldando le forbici del barbiere del tifoso del Manchester United, perché è arrivata a 3 vittorie consecutive. Doveva tagliarsi i capelli a 5, credo. La situazione mi sembra che per il Manchester non sia male, anche perché le 3 partite vinte sono contro il City, l'Arsenal e il Fulham, quindi comunque 2 squadre molto forti, e più il Fulham, che comunque è ottavo in classifica, non è una di quelle scarse, e giocano lo stadio più bello d'Europa pure in tutto questo, quindi bravi loro. Lo United che finalmente sembra di rivedere, non ti dico che sembra di rivedere quello United, però almeno abbiamo una squadra che evita di farsi prendere in giro ad ogni domenica. E dall'altra parte c'è il City, che in vantaggio di 2-0 invece riesce a pareggiare la gara contro il Tottenham. C'è un gol incredibile di Solanke, che fa un gol quasi identico a quello che fece Giroud ai tempi dell'Arsenal, questo tacco scorpione volante all'incrocio dei pali, Donnarumma vola ma non ci arriva, e suggella così il pareggio del Tottenham. Una partita 2-2, i gol che subiscono il Tottenham è roba da Serie C nostrana. Il Tottenham ha una fase difensiva veramente. Ragazzi, 10 metri dai due difensori centrali, ok, abbiamo capito. Però partita inglese, tanti gol, intensità, corsa, atletismo. E comunque il Tottenham appunto è 14esimo quest'anno in Premier, quindi è ampiamente nella parte bassa e ha qualità comunque importanti. Tra l'altro fa involontariamente dà un aiuto ai cugini dell'Arsenal tanto odiati, il Tottenham, perché fermando il City lascia gli Arsenal, che vince 4-0 comodamente contro il Leeds, 6 punti di vantaggio per l'Arsenal sul City. dietro non ne approfitta perché prende un brutto stop anche lui l'Aston Villa. L'Aston Villa perde in casa 1-0 dal Brentford. Brentford che tra l'altro rimane in 10 al 42esimo. Subito dopo, prima dell'intervallo, bolla e va in vantaggio e conserverà il vantaggio per tutto il secondo tempo facendo una partitazza. È una partita molto difensiva. Il Brentford comunque è una delle novità, diciamo così, del campionato inglese. È settimo, praticamente 3 punti sotto il Liverpool. Ma leggevo fosse la squadra più influente della Premier League a livello di statistiche applicate, metodo di, la metodologia con cui poi usano queste statistiche. Insomma, è una squadra di riferimento. Di riferimento appunto a questo punto di vista, e sta facendo un ottimo campionato proprio sopra il Fulham di cui parlavamo prima, che è l'altro. Il Wolverhampton sono a 8 punti ormai, direi che hanno la salvezza sarebbe a 26. La salvezza possibile sarebbe a 26, direi che li possiamo dare già per retrocessi, come anche il Burnley che vedo in forte difficoltà, 15 punti. Anche il West Ham, che sta facendo una stagione terribile, è a 20 punti ed è l'ultima, sarebbe l'ultima retrocessa. La prima delle salve è il Nottingham Forest con Dindoie, quello di Dindoie, portiamo una iella. Noi... E Luca adesso. E adesso anche Luca, sì, sì. No, ma il Bologna porta una iella, quando il giocatore va via a soldi. Drammatico, drammatico. Fa un pareggino il Nottingham Forest, perde il derby col Chelsea, il West Ham che viene sorpassato nel recupero con un gol di Enzo Fernandez. Dopo, sul tentativo di ribaltamento di fronte, subisce un fallo Traoré, si scatena un rissone che porterà 2 ammoniti e un rosso, un po' Royal Rumble. Così. Allora, cioè, Adama Traoré è una delle offese più grosse che il calcio abbia mai ricevuto. Che poi è un personaggio che è diventato anche un po' meme per via appunto della sua fisicità da avversario di Brock Lesnar in WWE. È un uomo che col calcio non c'entra assolutamente nulla, ma proprio concettualmente non c'entra nulla. È appunto un atleta della WWE che si presta ad indossare maglie di squadre di calcio. No, ogni anno, io non capisco perché ogni anno c'è una squadra di calcio che appunto si presta la sua divisa, i suoi momenti a questo qua che non è un giocatore di calcio. Entra partita in corso un West Ham abbastanza disperato che tra l'altro ha pagato con soldi buoni Tati Castiglianos, che non sta rivelandosi poi così rilevante. Esatto, è vero, non è un acquisto. Bene, chiudiamo anche la parentesi dedicata alla Premier League, ci buttiamo nella Bundesliga. Bundesliga che possiamo dire c'è crisi Bayern. Crisi un Bayern. Punto. Le ultime due. È clamorosa crisi Bayern e infatti il Borussia Dortmund si avvicina a 6 punti. Beh, dai, pensavo bene. Pensavo più, cioè, pensavo di più. Fossero stati a 4 già, cominciavi... Però, insomma, non lo so, però è strano questo rallentamento oddio, cioè, questi vincono ininterrottamente da agosto. Ci sta anche che ti fai tipo un paio di settimane un attimino relax. Vediamo, perché poi dopo ricomincia la Champions, cioè... No, se ti si incastra male, che poi il calcio è un attimo, eh? Ah, sì, il calcio però, lo conosciamo. Cioè, un attimo. Di solito non succede, ma non può, succede. Può capitare. E va in vantaggio 2-1 e poi viene raggiunto al 52esimo dall'Amburgo. Amburgo è appunto 2-2 in casa dall'Amburgo. Dopo una pioggia di cartellini gialli dal pareggio dell'Amburgo in avanti. Sono gialli di stufisia quelli. Gialli di stufisia, ma veramente tanti, una decina di gialli divise tra le due squadre. Ma adesso che mi ci fai ripensare? Ma il Bayern Monaco non è lo stesso Bayern Monaco che tipo un paio d'anni fa con 8.000 punti di vantaggio quasi lo perde, che poi alla fine è il Borussia che lo lascia andare il esatto, campionato. Esatto, vediamo. Perché appunto Borussia Dortmund invece vince 3-2 con l'Heidenheim e appunto continua a inseguire il Monaco e l'Hoffenheim è terzo con 42 punti, Hoffenheim che in settimana ha vinto 3-1 con l'Union Berlino. Non è una grande stagione per l'Union Berlino, rimane lì in mezzo nella pancia come una squadra normale, una squadra che può vincere, perdere o pareggiare, non come quando aveva preso Bonucci. No, e non ha più quello spostatore di equilibri là, quindi adesso può affrontare le partite di calcio come le partite di calcio. Esatto, normalmente. Vi ricordo che la squadra di Berlino rimane sempre allerta. Ah, su questo insomma abbiamo la pensiamo diversamente. La prima è allerta. C'è la Union e poi c'è la Dinamo Berlino, c'è il Tennis Club Berlino, Club Berlino. È l'Hertha Berlino, la squadra di Berlino, soprannominata di Alte Damen. la vecchia signora in tedesco. Ah, addirittura la vecchia signora come la Juve. Ah, incredibile. Brutta storia, brutta storia. San Paoli sempre più inguaiato, torna a perdere. Il pareggino nel derby con l'Amburgo aveva portato proprio così una boccata d'aria fresca, ma poi non gira. E con il punto nello scontro con la capolista, l'Amburgo si avvicina al gruppo delle salve vere. Eh sì, la situazione appunto per il San Paoli è abbastanza complessa. Cambiamo campionato, andiamo in Francia dove c'è il Paris Saint-Germain capolista, purtroppo lo avevamo già detto, batte 2-1 lo Strasburgo, con un rigore sbagliato di Panichelli. Ho visto essere inserito in alcune richieste di mercato. È un bomber questo qua, cioè, ripeto, poi magari in Ligue 1 è più facile, però questo sembra essere un buon bomber. È forte, forte, noi lo abbiamo segnalato da questi microfoni già quando era in prestito a tentare la scalata nelle serie minori in Spagna. Bellissimo giocatore, lo ipnotizza Safonov e gli para il rigore alla fine, pur con l'uomo in meno, perché Hakimi si fa espellere, la ribalta il Paris Saint-Germain. Una partita comunque fatta dallo Strasburgo, ben giocata a pallone. E il Lens invece continua a vincere, vince contro la sua bestia nera. Nelle ultime 13 partite non aveva mai vinto in casa contro il Le Havre, e quindi riesce a batterlo 1-0. Allora, nel campionato francese c'è una buona notizia, c'è un giocatore che arriva nel campionato francese, o comunque sta arrivando, siamo ai dettagli, anche da questi microfoni lo abbiamo nominato spesso, soprattutto quando andò via Zirkzee dal Bologna, lo nominammo per una sostituzione ipotetica perché è identico a lui sia nell'air style che nel modo di giocare, e cioè Jason Russell-Rowe, quel canadese della Crew di Columbus, giocatore che ricalca in tutto Joshua Zirkzee, forse un po' più rapido nei movimenti, ok, dovrebbe finire al Tolosa, così ho letto ultimamente. Io sono molto contento che arrivi in Europa. Peccato non ci abbia pensato il Bologna, però sono molto contento. Bene, il Tolosa a metà della classifica. Il Tolosa di Thijs Dallinga, ricordiamo, da dove viene proprio lui, che ha fatto 0-0 con l'Auxerre in casa. Esatto, questa settimana, ottavo posto a metà della classifica. Bene, chiudiamo con il Belgio, prima di passare alla pagina dedicata alla Serie C, perché ci sono novità, non dal punto di vista del risultato, diciamo così, uno squalido 0-0, ma comunque ne parleremo della San Benedettese. Dicevo, il Belgio, dove purtroppo non sono buone le notizie per il Mechelen, che pareggia con Leuven, e in questo momento sarebbe al settimo posto, proprio davanti allo Standard Liegi. Alle Standard, abbiamo vinto, rimaniamo umili, ma abbiamo vinto. Esatto, per rimanere lì belli piazzati nel girone Conference. In questo momento appunto il Mechelen in realtà è pari merito con lo Charleroi e il Genk per giocarsi, insomma, due su tre passano nella pool scudetto. Ma a noi non ci interessa, noi vogliamo far ammazzare con i tifosi dello Standard. Quindi vi va bene rimanere contro Fio, capito? Noi, sì, ci va benissimo così. Rimanere lì nel girone dove accadono le cose, il girone Conference. Pensa che bello essere ottavi in campionato con 20 gol segnati in 23 partite. Beh, non è male, chi è che lo può fare? Lo Standard, alle standard. Bene, questo è quanto. Anche il nostro regista vuole aggiungere qualcosa. Ritorno un attimo alla Serie A, volevo comunicare l'esonero di Paolo Zanetti, allenatore del Verona. Al suo posto l'allenatore della Primavera, Paolo Sammarco, ex giocatore Sampdoria, Chievo, Udinese. Attenzione, conosco bene Paolo Sammarco, avendo seguito appunto il Verona di Paolo Sammarco, da cui arriva Alfaggio Cissé, ricordiamo. È un ottimo allenatore, i suoi ragazzi in campo, i ragazzi di Primavera, sempre molto ben messi in campo, molto performanti, concentrati, però ti davano sempre la sensazione che comunque continuavano a divertirsi, con quell'area da divertimento giovanile che ci deve essere in un campionato giovanile. E spero che si porti su, che dia minutaggio a Davide De Battisti sulla fascia sinistra, che è un altro elemento di quella Primavera. Vediamo, mi aspetto qualcosina di carino. È un autore che mi piace, con i ragazzi. È la seconda vittima di questa giornata dopo Alberto Gilardino, che cede il posto a Hillemark. Curioso allenatore, esotico. Curioso allenatore, ex giocatore del Genoa. Esatto, bravo. E mi dicono bene come qualità da da tecnico. Vediamo, queste sono due novità particolari, frizzanti, che non mi dispiacciono, se devo essere onesto. Bene, bene, vedremo. Due aggiunte che vanno appunto a provare a rinforzare. Poi il Verona è anche squadra che dopo il mercato di gennaio è riuscita a salvarsi comprando 10 giocatori sconosciuti che poi si sono rivelati molto forti, vendendo i migliori, come ha fatto in questo momento, ha più venduto che comprato. Però è anche vero che poi i nomi li scopri durante... avevano preso anche Scamalazza, che era lì, gioca tra 10 giornate, te lo trovi lì, in mezzo alla lista dei convocati, dei titolari del Verona a caso. Però per chiudere la parte dedicata al calcio internazionale, un occhio sulla C che abbiamo fatto da vicino, perché... Molto vicino. Allora... uno dei presenti in questo studio è andato a vedere Carpi San Benedettese. Simone, raccontaci che cosa è stata. Allora, mentre giocavano i ragazzi, io ero di là in cucina a preparare lasagne e tortellini in brodo, perché ero al cazzo di lavoro, e quindi quello che era lo stadio in realtà è il nostro regista. No, è una sorpresa. Sei andato a vedere Carpi? Ero lì per caso, mi sono allungato al Cabassi e mi sono andato a vedere. Ho speso anche 15 euro, però, che non è poco per una partita. Quindi io vorrei anche aprire una parentesi, magari non è questo il momento, sul costo dei biglietti per andare allo stadio. 15 euro per un Carpi e San Benedettese, partita obiettivamente brutta. È brutta la Serie C. Con due squadre che si guardano un po' indietro, 0-0. Anche se una buona occasione l'ha avuta la San Benedettese sul finale con Leonardo che ha ciccato fuori il pallone. Però bello, comunque bella atmosfera. In 400 i ragazzi, me l'hai salutati? 400 tifosi della San Benedettese hanno cantato tutta la partita. Grandi ragazzi. Massimo rispetto per loro, anche per i tifosi del Carpi, ovviamente. C'era anche una buona componente carpigiana. Certo. Carpi comunque ha fatto anche un po' di Serie A. Inter Carpi 1-1, gol di Lasagna 1-1. Come dimenticarsi, Lasagna proprio. Lasagna. E tu c'eri? C'ero. Anche quello, perché tu segui sempre Carpi. Quindi mi pare di capire che tu sia un po' tifoso anche del Carpi. Cuore bianco rosso. Carpi no, però ero quella l'Inter Carpi lì. Esistenzialismo interista puro. Veramente un regalo. Poi era all'ora di pranzo per caso la partita? Era alle 15. Una lasagna alle 3. Ma guarda, dove lavoro è pieno di gente che prende lasagna lì alle 3. Kevin, prendono dei Kevin lasagna anche alle 3. Vabbè, del resto ci sono dei Kevin che prendono le lasagne. Questo è perché sono stranieri quelli che... la metà sono americani, quindi sì, è un buon che ci sta un Kevin, figurati. Un Kevin, ragazzi, in 400 a Carpi con la squadra che sta andando a passettini, un altro punticino, sei sempre in zona playout piena adesso sì, perché problema per te, Simone, è che l'Ascoli nel girone B della Serie C è terzo. Lo so, è terzo da inizio campionato. Ormai camminano forti. Però allora intanto si è fermato un po' Ravenna, salutiamo tutti quelli che ci ascoltano da Ravenna, e si è un po' fermato il Ravenna, adesso ha 7 punti di svantaggio dall'Arezzo. La Serie C regala la prima posizione, la promozione diretta, e dalla seconda fino alla decima play-off di tutti i tre gironi, quindi sono play-off della Serie C, sono è tipo il mondo alternativo di Stranger Things, un girone dove ci sono quattro squadre che hanno fatto la Serie A, vado a memoria: l'Ascoli, il Carpi, il Livorno e il Perugia. Beh, Rimini non è riuscito ad arrivare in Serie A? No, mai. Non ce l'ha mai fatta. Adesso non c'è più proprio. Ci abbiamo perso in casa in Serie B. Il Bologna ha perso dal Rimini in casa in Serie B, ma in Serie A non è mai arrivato. Se mi ricordavo. Mi salutiamo ancora i fratelli di Rimini, che stanno attraversando un periodaccio, perché la squadra appunto è fallita poco prima di Natale, se non mi ricordo male. Il loro mister, il loro ex mister, è siede sulla nostra panchina attualmente, cioè D'Alessio, giovane. Ieri ha riproposto di nuovo un 3-5-2, aveva provato con una linea 4 due settimane fa, ci sta provando, raga. È esattamente l'annata che mi credevo all'inizio, che immaginavo si sarebbe strutturato in questa maniera. Ci mancano 3-4 punti per tutti i gol che non riusciamo a realizzare, però è esatta, raga, la Serie C questa è dura, la Serie C è dura. al volo per i nostri ascoltatori come Alessio che ci ha appena scritto: perché non parlate mai del campionato olandese? Perché la capolista del campionato olandese ha fatto 56 punti in 21 partite, e che vuol dire che ne ha lasciati indietro 7 in 21 partite, ed è il PSV che tra l'altro ha appena battuto 3-0 la seconda, il Feyenoord, che è quella a meno 17. Come facciamo a parlare di un campionato del genere? 17 punti di vantaggio, il PSV festeggiamo lo scudetto del PSV durante la pubblicità. Ultima parte di Caffè Paglia di quest'oggi, ovviamente stiamo dando un'occhiata anche al mercato, se arrivano aggiornamenti ve li daremo, con il mercato ancora aperto fino alle 7, quindi ci saranno dei cambiamenti sicuro. L'ultima cosa sul Bologna, uscita su tutto mercato web, dice: piste calde per gli attaccanti Noslin e Zito Luvumbo. Zito Luvumbo? Ah, questo è la... voi mi dovete fare incazzare per davvero, mamma mia, già lo so che da qua in primavera mi farete incazzare. Va bene, per fortuna adesso è la pagina degli altri sport, e casualmente oggi avevamo scelto, prima di vedere i risultati, di parlare di basket, in particolare della Serie A1, perché comunque ogni tanto dovremmo seguire la 1. La 1 che ha una nuova capolista, casualmente, ed è Brescia che vince contro Milano, quindi la sfida, insomma, una sfida molto sentita, e da primi posti nella classifica, partita che fino agli minuti finali era comandata da Milano di poco, insomma, con pochi punti di vantaggio. Poi Della Valle decide di fare il Della Valle e fare il classico finale dell'ex, e ne fa 9 credo negli ultimi minuto e mezzo. Sì, tra il finale del terzo quarto e tutto l'ultimo quarto Brescia sale in cattedra, e gli ultimi minuti di gioco sono veramente devastanti per le scarpette rosse. Credo che ne abbia fatto i 9 punti consecutivi, proprio gli ultimi 9 della Valle. E appunto, vittoria importante perché la mantiene al primo posto. Poi bisognava aspettare l'altra prima in classifica, che è la Virtus che vince a Monaco in Eurolega, una sfida importante all'ultimo secondo con un tiro da 3 punti di Vildoza a 4 secondi alla fine, se non sbaglio. Probabilmente sente un po' la fatica, anche perché un po' di infortuni e le rotazioni sono un filo più corte, contro Trento, sempre realtà interessante del basket italiano, squadra che produce anche giocatori, e Niang che diciamo gioca nella Virtus, il Niang che gioca nella Virtus è prodotto da Trento. Trento adesso ha, credo, anche il Niang piccolo in gestione, diciamo così, dicono che sia molto forte anche lui, quindi potrebbe essere una buona lidiata, un po' come gli Esposito di cui parlavamo prima, no? Ce n'è un terzo poi che è anche bravo lui, se non mi ricordo male. Sì, è vero. Comunque appunto riesce a vincere i 85-87 Trento in casa, aveva perso solo con Cremona in campionato in casa, la Virtus era praticamente, insomma, con una sconfitta in casa. In questo momento appunto Brescia ha 15 vittorie e 2 sconfitte, quindi 30 punti, diciamo così, mentre la Virtus ne ha 28. E in un campionato con le squadre dispari, come succede di tanto in tanto nella massima serie del basket italiano, perché ricordiamo, Trapani non esiste più. Trapani non esiste più, un po' come Rimini, prima citavamo la Rimini della Serie C, girone B, anche la Trapani invece la Trapani del calcio c'è ancora, è riuscita a tenerla. Ha fatto anche mercato. Ah sì, addirittura, quindi tutti i soldi che ha risparmiato di là li sta mettendo sul calcio, probabilmente Antonini. Il fatto sta che appunto ci sarà una retrocessa è già decisa, diciamo così, l'altra è Trento, però ci sono strane voci che vogliono l'anno prossimo una squadra di Roma in Serie A. Allora vai a vedere, in A2 non c'è molta possibilità che ci sia una Roma che vada in Serie A l'anno prossimo. È lì legato questo progetto, collegato alla NBA in Europa, insomma, la versione europea dell'NBA, che vorrebbe avere grandi città all'interno di questa nuova competizione che va a crearsi. E allora non è che puoi avere una squadra Brescia Brescia poco interessante interessante per il mercato NBA, Roma sarebbe molto più interessante. Il problema è che appunto Roma in questo momento non c'è, dovrebbe acquistare i diritti. Qualcuno dice può prendere quelli di Trapani. Trapani cioè, è fallita. Sì, rimestiamola un po', facciamola prendere al senatore Claudio Lotito. Potrebbe essere, gli togliamo la Lazio e gli diamo la Roma. Potrebbe succedere. Siamo nel paese giusto per cui una cosa del genere possa accadere, e anzi mi gioco pure questa. Andiamo a giocarcela un po' a proposito di scommesse. Con Antonini riabilitato che con i soldi di Lotito va in pari. Facciamo pari. Ti dico di più, sono quasi certo che succederà. Ti dico di più, no, Antonini compra Lazio. No. Compra Lazio e gli dà il massimo. No, tiene il Trapani ma diventa senatore anche diventa lui. Senatore, si scambiano le cose. Potrebbe essere tutto in Italia, tutto ciò potrebbe avvenire. Tra poco ci sarà la Coppa Italia, che appunto arriva a febbraio. La Coppa Italia dovrebbe avere la sì, in realtà ancora un po' di tempo ci dovrebbe mancare. La prima sfida della Virtus sarà col Basket Napoli e sarà il 19 di febbraio, quindi ancora un po' di tempo. Ci sarà un paio di giornate e poi si giocherà appunto il primo trofeo vero della stagione, Supercoppa, va bene, il basket conta il giusto. Milano dall'altra parte del tabellone. Quindi Milano, sì, potenzialmente la finale potrebbe essere Virtus contro Milano o Brescia, perché insomma Brescia ha già dimostrato di sapere battere Milano due volte in campionato, ha vinto entrambe le sfide Brescia, quindi è 2-0. Milano in classifica in questo momento è al quarto posto insieme a Paiata a Venezia, quindi si gioca terzo e quarto posto. Direi che difficile che possa scendere da quella posizione. C'è Tortona al quinto con 20 punti e poi c'è una bella lotta per in realtà entrare ai playoff. Una volta definito il tabellone della Coppa Italia, poi il prossimo obiettivo sarà quello dei playoff, perché Napoli è sì ottava a 14 punti insieme a Udine e Cremona, e con poi Reggiana, Varese e Sassari solo a 2 punti, quindi i giochi per i playoff sono ampiamente aperti. Sotto invece se la giocheranno probabilmente Cantù e Treviso per essere la seconda retrocessa, probabilmente sarà questo. Verosimile. Andiamo a vedere anche la A2 dove non c'è Roma, il nostro Margherita. Sì, appunto, quindi non è possibile che passi da lì. Sì, casualmente è stata la scelta questa cosa del basket proprio nel giorno in cui la Virtus perde e la Fortitudo vince, ma però è casuale. È sempre casuale. Assolutamente, sempre una cosa casuale, ecco. Vince in casa contro Pistoia, che insomma non è sicuramente una corazzata, una delle ultime della classifica della 2, è 19esima per la precisione, con 12 punti. È una vittoria che comunque tiene vive le speranze di entrare nelle prime 7. Ovviamente sarebbe meglio entrare come prima, nel senso per vincere direttamente il campionato e essere promossi, ma mi sembra che Pesaro sia una corazzata che non so se si farà sfuggire questa occasione. Non ha neanche moltissimo margine Pesaro. Se tu fossi secondo, se tu sei settimo, hai comunque quelle 3 vittorie da recuperargli, che è dura, e tante squadre in mezzo. In effetti Cividale, che è insomma una bella realtà, allenata Pilastrini se non vado errato, si trova a 2 punti da Pesaro, quindi assolutamente ancora in lotta. E anche Livorno, che è cresciuta nel corso del campionato. Livorno, Brindisi, Rimini sono a 32, quindi teoricamente ancora tutto è giocabile, però mi sembra Pesaro quella la favorita, diciamo è la favorita a salire su direttamente. La Fortitudo, dicevamo, è in questo momento settima, quindi potenzialmente accederebbe già al turno dei playoff normale, non avrebbe bisogno di giocare altre partite, però la classifica è molto molto corta, perché Scafati, che ha battuto la Fortitudo la settimana scorsa, Verona e Sebastiani Rieti hanno gli stessi punti della Fortitudo, quindi tutto può ancora succedere. In realtà appunto bisognerà aspettare l'ultima giornata di campionato, probabilmente per definire la griglia e quante partite giocherai. E intanto la prossima ce l'hai a Torino, che è ghignosina comunque. Esatto, insomma, la prossima partita in trasferta, tra l'altro la Fortitudo ha problemi in particolare in trasferta, quindi questo è Torino è dodicesima a 24 punti, quindi un po' sotto la Fortitudo, bisognerebbe proprio provare a fare il salto e vincere finalmente in trasferta per poter entrare nelle prime sette con più tranquillità, ecco, rimanere, perché ultimamente con una vittoria sei dentro, con una vittoria, con una sconfitta sei già al play-in o devi andare ancora a giocartela. Questo per quanto riguarda appunto il basket italiano. Diamo un'occhiata anche a quello che accade in America, in NBA, con ovviamente sempre l'occhio all'All-Star Game che sta per arrivare. Di solito la stagione NBA inizia dopo All-Star Game, si dice, no? Arriva All-Star Game, finisce la possibilità di fare mercato, perché anche lì c'è uno stop sul mercato e quindi ci possono essere gli ultimi cambi, le ultime situazioni. Poi All-Star Game una volta era la festa dei giocatori in cui andavano a giocare più tranquillamente per poi riallacciarsi le scarpe e prepararsi per la corsa ai playoff e poi ai playoff veri e propri. E quindi insomma è ovvio che le cose iniziano a farsi serie dopo l'All-Star Game. Dicevamo, la classifica rimane immutata con Oklahoma in vetta a ovest, ma anche l'NBA intera con 39 vinte e 11 perse, non lontana comunque Detroit, che invece capeggia a est con 36 vinte e 12 perse, quindi a livello di sconfitte siamo lì. Per quanto riguarda l'Ovest, al secondo posto se la giocano Denver e San Antonio, che comunque sono due ottime squadre, una emergente ovviamente e l'altra che ha già vinto il titolo da poco con l'MVP appunto delle ultime stagioni, Jokic. Poi Houston, che ha l'aggiunta di Kevin Durant in questa stagione, Los Angeles, che evidentemente si aspettava qualcosa di più dall'eccezionale duo Doncic-LeBron, è solo sesta a ovest con 29 vinte e 19 perse. Per quanto riguarda l'est, dicevamo di Detroit in vetta alla classifica, poi Boston, che senza Jason Tatum comunque sta facendo una ottima stagione, 31 vinte e 18 perse per loro, davanti allo stesso proprio pari ai New York Knicks con appunto lo stesso score, quindi si giocheranno le posizioni e la bella in casa nell'ipotetica sfida ai playoff in questo finale di stagione, con Cleveland e Toronto che comunque sono abbastanza vicine, sì, 30 vittorie e 21 sconfitte per entrambe, quindi sono due coppie di squadre che si giocano le posizioni che contano. Per quanto riguarda le sorprese, diciamo così, o le delusioni, ovviamente un po' Dallas che ha fatto il peggior scambio della storia, prendendo poi però Cooper Flagg come prima scelta, riuscendo a prendere Cooper Flagg come prima scelta. Dallas è fuori, Cooper Flagg sta facendo un'ottima stagione e sta dimostrando di essere un buon giocatore, però appunto Dallas è fuori dai playoff in questo momento. Per quanto riguarda invece l'altra grande sorpresa, quella dell'est, è i Milwaukee Bucks, che evidentemente hanno rotto un po' il rapporto anche con Antetokounmpo, che potrebbe, parla di trade, potrebbe anche andare via. In questo momento sono dodicesimi, quindi fuori da qualsiasi tipo di playoff, e con anche un Antetokounmpo dato in possibile partenza. È ovvio che ha un contratto così grande che devi per spostarlo, insomma, devi fare uno scambio importante. Ma perché è grande lui? Poi si porta i due fratelli, credo che sia collegato con i fratelli, quindi insomma, che sono grandi anche loro, quindi occupano spazio oltre che nel salary cap, proprio anche in panchina, cioè nel senso che si siedono lì con lui. Bene, questo per quanto riguarda l'NBA. Ovviamente l'attesa è in America, tutta concentrata sul Super Bowl. Super Bowl che entrerà nel vivo domenica prossima, no? Se non mi sbaglio, sì, dovrebbe essere la prima settimana di febbraio. Stavo leggendo tutti. E io sono andato a fare spesa intanto, perché Fio, questo qua, tu non lo sai, ma è uno che mangia. Lo so, benissimo. Ha preteso il messicano, quello serio. Ha preteso i fagioli messicani, quelli piccoli e neri, perché se no non gli piacciono, ok? Quindi siamo tutti pronti, mi raccomando, regista, tu sei sempre invitato, mi raccomando, vedi quello che devi fare. Lunedì 9. Domenica 8, lunedì 9, sì, esattamente. Quindi noi arriveremo qui in studio devastati. In diretta. Vediamo, non ho ancora capito chi va a simpatizzare. Seattle è sempre una città che ho nel cuore, che ce l'abbiamo un po' tutti. Quindi andrò con loro. Però è affascinante la storia dei Patriots, anche se sono stati cattivi per 20 anni. Però questi sono tornati al Super Bowl molto, molto più velocemente di quanto tutti si immaginassero. Bravi. E quindi hanno fatto un bel lavoro. Ed è insomma un peccato ti fare contro. Tu, Fio, hai già preso la posizione? Cioè, lui ha detto più, si sente più Seattle. È ovvio che insomma Sonics, Nirvana, gli Alice in Chains, certo, tutta quella gente. Avevamo capito che non era per la squadra in sé. Sì, nonostante il tizio degli Heart, quello che settimana scorsa non ha suonato al TPO perché c'era una bandiera palestinese, nonostante quello, Seattle, direi decisamente Seattle. E in realtà tifo per chi riuscirà a buggerare il capitalismo, come quello che quella volta aveva scommesso che durante un Super Bowl ci sarebbe stata un'invasione di campo. Allora ha preso tutti i suoi risparmi, ha messo $50,000 su invasione, sì, e quando ha visto che nessuno faceva invasione si è spogliato lui e ha fatto invasione. Tanto se c'è qualcuno che lo fa meglio così, io incasso e basta, se no mi tocca farla direttamente. Super Bowl che sarà giocato al Lewis Stadium, penso che sia proprio quello per i jeans, dei jeans, a Santa Clara. Francisco, sì, lo stadio dei Santa Niners. Clara. Sì, lo stadio dei, il nuovo stadio dei Niners. Sì, è proprio lui. Quindi insomma, quello è. Quindi sarà anche caldo, non ci sarà situazioni, problemi meteorologici probabilmente. Vicini anche all'inizio delle Olimpiadi, sempre nella parte mix degli sport. Stavo pensando di andare a vedere l'ultima gara di Dorothea Wierer. Sarebbe bellissimo andare su. Loro, ho visto solo tipo Hunter Selva a fare biathlon, perché poi in realtà è le Olimpiadi Milano Cortina e altre 800 altre cittadine in giro, perché ogni sport è... Ma ho letto che ci sarà una specie di doppio braciere, uno per Milano e uno per... Milano Cortina, perché Milano Cortina, sì, quindi... non è la prima volta che due città ospitano un gioco olimpico, sì? Eh sì. Ah, con i mondiali mi confondo io, che invece sì, due nazioni, sì, occupo, sì. Due o tre nazioni come i prossimi. Sarà particolare per i due bracieri, un po' strano, adesso vediamo. Doppia opzione, e in più appunto ci saranno gare da altre varie e gli altri luoghi. Dorothea Wierer ha annunciato che abbandonerà il biathlon dopo queste Olimpiadi. Tu che parli tedesco sai cosa vuol dire Führer in tedesco, vero? Sfacciato vuol dire. Addirittura Dorothea sfacciata, quindi beh, è stata una carriera sfacciata per lei, una grande carriera, tra l'altro atleta bellissima che fa questo sport complessissimo, perché unisce due sforzi completamente diversi, lo sci di fondo e il tiro a volo, il tiro al bersaglio, ecco, esattamente. Quindi insomma robe bellissime. Potrei andare, adesso farò l'inviato, preparatevi quella puntata che potrei essere su ad Hunter Selva a salutare Dorothea. Sarà molto interessante anche un tuo reportage sul pubblico degli ultra del biathlon. Sì, ma sono curioso. No, bello, perché cantano fortissimo, poi quando spara silenzio. Silenzissimo. Non prendere l'auto, Smingo, perché rischi di trovare quello che ti lascia a piedi. Esatto, no? Il biglietto da 10. Tra l'altro c'è grandi polemiche, molto italiane ovviamente, perché hanno alzato i prezzi degli autobus tutti, anche quelli che ci lavorano, quelli che vanno a scuola. Sì, praticamente si sale su qualsiasi autobus per qualsiasi distanza solo con il giornaliero da 10 euro. Da 10 euro? E tu, io faccio due fermate, vado avanti lì. 10 euro, va bene. Questo questa roba è veramente orrenda. È veramente terribile. Vabbè, purtroppo stiamo arrivando alla fine. Ci sarà anche l'hockey, che alle Olimpiadi è l'appuntamento veramente per gli appassionati di hockey, perché ci sono tutti i giocatori NHL, quindi i professionisti, diventa anche meglio del mondiale da questo punto di vista. È ovvio che non è proprio lo sport che riesco a seguire al massimo, perché va talmente veloce la pallina che io non vedo niente. Volevi aggiungere qualcosa? Siamo devono ancora finire di lamare la pista. Sì, non è ancora finita, non è ancora finita la pista. Bene, bene, ma sicuramente noi italiani al giorno della prima partita la pista sarà perfetta. Mezz'ora prima no, ma quel giorno lì è perfetta. Ok, salutiamo e lasciamo lo spazio all'informazione di Popolare Network. Ciao.